l'abitare di Roma. Ciao, ci senti? Ciao a tutti e tutte, eccomi qua. Ciao, ciao, benvenuto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come preannunciato, come preannunciato, ti chiederei di raccontarci un po' la giornata che avete preparato per domani e anche un po' qual è stata la costruzione per arrivare a questa giornata di mobilitazione. Sì, se mi permettete vi racconto un po' quello che sta accadendo ora, che introduce il corteo di domani, perché da circa un'ora, diciamo, decine, centinaia di persone, occupanti, siamo lottatori sociali, come dice un altro compagno spesso, stiamo occupando la sede dell'ATER di Roma, sul Lungotevere Tortinona, quindi proprio in centro, davanti, diciamo, di fatto a Castel Sant'Angelo. È una protesta molto decisa, ci sono tantissime persone, è stata anche rintuzzata qualche provocazione che c'è stata inizialmente, e ci sono 3 persone incatenate, e questa iniziativa ovviamente crea anche un po' il clima di... Deve essere caduta per un attimo la linea, quindi ti chiedo di riprendere il discorso da un po' più indietro, per cortesia. Sì, stiamo facendo questa occupazione della sede centrale dell'ATER, no? È in corso, sì. E quindi, come dire, non sono mancati inizialmente un po' di momenti di tensione, però sono stati ben rintuzzati da una realtà molto compatta, molto determinata che c'è qui, cioè che esprime grande insoddisfazione per quello che è stato fatto e non fatto, soprattutto in questi anni, per un'emergenza abitativa che cresce e che non trova risposte. Noi diciamo che una delle risposte che bisogna mettere in campo è un grande piano straordinario. Quest'idea, la regione per esempio che governa l'ATER l'ha abbandonata negli ultimi 5 anni, e che il patrimonio pubblico degli enti previdenziali, il patrimonio esistente della città, senza costruire ancora cemento dentro questa città, deve essere riqualificato per dare risposte alla città che vive grandissimi problemi sociali, di reddito, di difficoltà a arrivare alla fine del mese. Quindi dobbiamo fare dei recuperi. In particolare la regione aveva preso più volte, anche dentro momenti di tensione, mobilitazioni importanti, l'impegno di chiudere il progetto di riqualificazione di un'occupazione che ormai è una di quelle storiche, diciamo, che ci sono a Roma a più di 16 anni, che è il San Michele, a Tormarancia, e che è un ente previdenziale, diciamo, un ex ente di assistenza e beneficenza, ma di fatto è governato dalla Regione Lazio, e però siamo arrivati a 3 giorni dalla chiusura della campagna elettorale, e porterà nuove elezioni, no, al governo della Regione, e non hanno mantenuto gli impegni. Quindi saranno una giornata oggi di fuoco, saranno giorni di fuoco se non portiamo a casa il risultato materiale del recupero del San Michele. Quindi vi aggiorno in diretta intanto su quello che sta accadendo, in maniera che possiamo poi magari anche raccontarmi gli sviluppi nel proseguo della giornata. Assolutamente, quindi ricordiamo di nuovo che siete in occupazione alla sede dell'ATER sul Lungotevere, sì. Ponte di Nona. Sì, chi poi ci raggiunga anche, insomma, che diventi una grande protesta, un focolaio, insomma, che serve, no? Perché adesso magari arriviamo a domani ci sarà un corteo importante che partirà alle 16 da Piazza Esquilino, che arriverà sulla Piazza del Campidoglio per chiedere conto direttamente al sindaco e alla maggioranza di tutte le cose che non vanno. È un corteo importante perché è stato costruito attraverso un percorso di collegamento, di discussione comune fra tanti movimenti e realtà diverse, quindi ci sarà dentro il grande tema del reddito, inteso proprio come difficoltà ad arrivare alla fine del mese, no? Quindi salari, lavori precari, il tentativo, questa offensiva vergognosa del governo Meloni di cancellare il reddito di ridimensionare e poi cancellare di fatto il reddito di cittadinanza, e tutto il caro vita che dopo anni di pandemia e poi con tutto quello che è la guerra, no, insensata per noi ma sensata per i potenti che si contendono il mondo, sta portando come difficoltà di vita, no? Aumentano i prezzi, aumenta tutto, e quindi avrà dentro questa costruzione comune, perché poi di fatto soltanto in qualche modo, sicuramente anche rispettando le diversità, ma lavorando insieme, si può costruire un movimento in grado di mettere in discussione con pratiche, con lotte, lo stato di cose presenti. Ci dobbiamo provare, il corteo di domani è un segnale importante, quindi lavoriamoci molto anche in queste ore. E poi però ci sono anche le tematiche importanti della salute, le liste d'attesa che non consentono, diciamo, alle persone di curarsi in tempo, i ticket che costano troppo, la salute pubblica che viene gettata al vento per favorire i privati, e ci sarà anche una folta rappresentanza dei comitati contro l'inceneritore, il termovalorizzatore, che dir si voglia, e ovviamente anche una grande battaglia generale, no, quella che si prefigura, quindi un corteo proprio importante per il Movimento per diritto all'abitare. Sul tema della casa, noi crediamo che la casa sia un pezzo importante del reddito che ci viene sottratto, e quindi bisogna ritornare a una grande stagione di case popolari che si pagano in base al reddito che si ha, che devono essere date a chi ha bisogno e devono essere date sottraendo spazio alla speculazione, quindi recuperi, e quindi ecco, dimostrare anche attraverso l'iniziativa di oggi che si portano a casa i risultati se si lotta insieme, se si è determinati. Non ci possiamo più fidare di una politica che è sempre più degenerata in clientelismi, e sempre più prende la forma di una guerra dall'alto contro i poveri. Noi dobbiamo lottare, dobbiamo organizzarci e riprenderci quindi anche le case, il diritto alla casa, metro dopo metro, ma anche finanziando ovviamente una battaglia generale che sappia costruire il discorso comune, no? Assolutamente. Il cambiamento o siamo noi o non c'è, ecco, questo è il nostro pensiero, e quindi facciamolo insieme, ecco. Assolutamente, hai usato due termini che li hai usati separati, però insomma molto spesso vengono associati quando si tratta di attuare la politica: speculazione e clientelismo, perché l'abbiamo visto diverse volte quello che succede con quello che è il patrimonio, no? E non so se ci vuoi fare un piccolo approfondimento anche su questa tematica. Abbiamo visto, no, sotto elezioni, quando si devono fare la guerra dei voti fra di loro, vengono fuori gli altarini, ma poi si scopre che sono di una parte e dell'altra, e quindi case degli enti vendute a prezzi di favore ad amici, amichetti, agli stessi politici, che poi, come succede anche per Rocca, candidato del centrodestra, ma è successo anche con rappresentanti del cosiddetto centrosinistra, poi come dire, tutti stanno dentro un sistema in cui quello che è stato costruito con soldi dei lavoratori degli anni va ad ingrandire, come dire, piccoli e grandi meccanismi di speculazione invece che andare veramente a chi c'ha bisogno. Ma noi abbiamo capito, penso che è un paese che questa cosa l'ha capito, no? Che è tutta una grande truffa quello che abbiamo intorno. Il problema è uscire noi da meccanismi di piccola convenienza e capire che la strada è quella della lotta, sognare, costruire un mondo diverso, collegare battaglie e lotte insieme e provare, ragionando e lottando, a trovare la strada possibile. Intanto noi un segnale lo stiamo dando, occupando l'ADER di determinazione, e questo è, come dire, non è la prima volta che lo facciamo, ma è un segnale anche di come, con quale clima vogliamo costruire il corteo. Poi se non ci sarà soluzione per il San Michele, rimarremo qui dentro, saranno giorni difficili per chi si vuole presentare alle elezioni, perché noi passi indietro non ne facciamo, non ne vogliamo fare. Molto bene, e naturalmente i microfoni della radio sono sempre aperti in generale, ma soprattutto in queste ore in cui, ricordiamo, siete in occupazione all'ATER, e quindi se non hai altro da aggiungere per il momento ti saluterei. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre, se volete ci aggiorniamo, adesso è un momento di stasi, è anche, come dire, la forzatura è sempre dietro l'angolo, quindi teniamoci aggiornati, e chi può venga e troverà una situazione, come dire, di grandi cuori in lotta in questo momento, che sono decisi a non fare nessun passo indietro. Grazie. Grazie a te, buona giornata di lotta, sicuramente ci aggiorniamo nel corso della giornata. A dopo. Buona giornata, grazie. Ciao. Ciao. Thank you. 11 e 16 sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. È già disponibile sul nostro sito www.ondarossa.info la rassegna stampa di questa mattina, 8 febbraio. E mentre ci ascoltiamo un po' di musica, cerchiamo di metterci in contatto con dei compagni o delle compagne Notav. Perché ieri, nella giornata di martedì, degli agenti della Digos e della Questura di Torino hanno arrestato una nota attivista Notav, di Ascatasuna, che dovrà scontare 8 mesi di carcere.

11.48, questa è sempre Radio Onda Rossa, torniamo in voce con una compagna Notav che ci racconta la triste vicenda dell'arresto di ieri di una compagna. Ciao, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti? Sì, sì, sì, sento lontanissimo ma sento. Adesso mi senti meglio? Meglio, sì. Ok, perfetto. Come dicevo, ti chiediamo di raccontarci tutta quanta la storia dell'arresto di ieri di questa compagna, se ti va dall'inizio, perché è una storia che insomma ha radici ben lontane negli anni. Guarda, come tutte le storie del nostro movimento e non solo, perché ormai stanno arrivando in definitiva dei processi che durano almeno da 5, 6, 7 anni, quindi questo fatto è una lunga storia. In realtà avevamo fatto 12 anni fa una delle tante manifestazioni ai mulini di Clarea contro il cantiere, non eravamo arrivati al cantiere perché ci avevano comunque bloccati sul sentiero e in qualche modo avevano diviso la lunga fila di persone, perché c'eravamo tutti, c'erano i giovani un po' più avanti, poi c'erano gli anziani eccetera, avevano bloccato in due il corteo e la parte che era arrivata nei pressi del cantiere, non nel cantiere, l'avevano fermata e l'avevano caricata brutalmente. E una carica in piena notte, tra l'altro, e noi che eravamo dietro, eravamo comunque stati fermati sul sentiero alle spalle perché avevano tirato lacrimogeni in quantità enorme alle nostre spalle dando fuoco al bosco, per cui la parte che non era arrivata in prossimità del cantiere era comunque bloccata tra la fila dei poliziotti che occupavano l'autostrada e le fiamme che erano dietro di noi, quindi una cosa veramente tremenda. Alla fine siamo riusciti a tornare indietro e abbiamo aspettato fino all'alba, perché era la sera tardi, fino all'alba che i compagni che si erano dispersi nei boschi, tanti non conoscevano neanche la strada perché era comunque una manifestazione grande, popolare come sempre, abbiamo aspettato che tornassero per poterci ricomporre, vedere se c'erano feriti, e una di queste compagne, non solo una perché anche altri, ma in particolare questa compagna, non è tornata e quindi abbiamo saputo che l'avevano presa, li avevano chiusi all'interno del cantiere, li avevano picchiati e di lei abbiamo saputo che le avevano messo le mani addosso. Una poliziotta l'aveva chiamata, scusate il termine, puttana, e diceva con quella faccia lì, perché le avevano spaccato la faccia, non potrei più fare la puttana, questo detto a questa ragazza, e un poliziotto le aveva messo le mani addosso. Allora lei naturalmente si è difesa nel senso che ha denunciato queste cose e ha denunciato i poliziotti proprio per violenza, no? Assolutamente. È nato un processo, il processo è andato avanti. 10 anni fa c'è stata la prima udienza dove la ragazza veniva interrogata, era stata interrogata dal giudice, il quale aveva anche fatto delle affermazioni assolutamente lesive da parte del tribunale nei confronti della ragazza. Noi a quella prima udienza eravamo andate tante donne, comunque il movimento, davanti al tribunale di Torino per dar solidarietà a Marta, appunto la ragazza che era stata oggetto di violenza da parte del poliziotto. La solidarietà era nei nostri slogan e poi avevamo fatto un grande striscione che avevamo cercato di attaccare ai piedi della scalinata che saliva al tribunale. Naturalmente sulle sulle terrazze, sulle scale del tribunale c'era come sempre un esercito schierato in assetto antisommossa e ci sono venuti addosso. Una compagna ha dovuto andare in ospedale a farsi medicare perché le avevano spaccato la testa, hanno buttato per terra delle persone. Cieca è stata accusata appunto come sempre di violenza pubblico ufficiale. Noi di, certo, la violenza l'abbiamo ricevuta in tutti i modi, lei non aveva fatto niente se non insieme a noi, c'ero pure io per cui lo so, cercare di attaccare questo striscione alla balconata del tribunale. Tutto questo ricordiamo 10 anni fa. 10 anni fa. 10 anni fa, naturalmente, poi ci sono stati tutta una serie di processi, siamo arrivati al definitivo adesso e Cieca ieri è stata portata in carcere. Perché? Perché pur avendo chiesto le misure alternative, è chiaro che nessuno aveva messo le mani addosso a nessuno da parte nostra, ci siamo prese le botte, eravamo tutte donne soltanto davanti, tra l'altro, no? Quindi eravamo noi anziane, io sono anzianissima, ragazze giovani, siamo andate per mettere questo striscione di solidarietà. E Cieca ieri è stata portata in carcere perché il giudice di sorveglianza Elena Bonu le ha negato quello che invece il tribunale di sorveglianza sembrava propenso a dare, e cioè il fatto delle misure alternative al carcere. Sì, ricordiamo anche il parere positivo, sì, della Procura Generale esatto, appunto su questa richiesta di applicazione. Ma difatti ormai nessuno di noi è più sicuro che potrà avere misure alternative, perché rispetto al movimento No TAV più che mai si usa non solo il pugno di ferro, ma davvero una violenza infinita, ed è violenza questa, perché in realtà uno è non solo giudicato, ma poi anche represso duramente col carcere soltanto per quello che è, non per quello che ha fatto veramente. E del resto sappiamo la situazione generale. Parla il caso Cospito rispetto a questo, ma noi abbiamo da anni e anni e anni la stessa mannaia del Tribunale del Potere che continua a darci, a infliggerci colpi tremendi. Sì, da una parte, quindi, sotto il punto di vista proprio fisico, perché diciamo da anni si accaniscono, come dici te, in maniera veramente ossessiva. Ma certo, ma è una anche per chi appunto, come in questo caso, esprime semplicemente solidarietà, l'abbiamo visto tante volte. Solidarietà con dei processi tremendi. Io all'interno del processo, no, di sostegno a Marta ero una dei testimoni, perché la sera in cui Marta è stata presa ed è stata malmenata io c'ero, no? C'ero, e quindi avevo notizie di prima mano. Il pubblico ministero interrogandomi mi ha chiesto se io avevo mai subito violenza. E quindi in che senso io ero in grado di giudicare che Marta avesse subito violenza da parte del poliziotto? Per cui siamo quando mai potevi essere legittimata ad esprimere appunto questa solidarietà? Perché non ho ricevuto violenza sessuale non potevo esprimere solidarietà e raccontare la verità su quello che era successo in quella terribile notte, no? Quindi io gliel'ho detto che la violenza l'ho subita, la subivo dal pubblico ministero in quel momento, dove cercava anche in modo beffardo, no, di far tacere una voce che era poi una voce che raccontava la verità, una risposta precisa e diretta. E quindi questa è la giustizia, no? La loro giustizia. La nostra giustizia sarebbe un'altra cosa, naturalmente. Quindi Cieca sarà in carcere a ben 11 mesi da scontare. Chi ha provato il carcere, io l'ho provato solo per 3 mesi, però so che cosa significa essere in carcere. Questo giudice di sorveglianza che è stato così crudele, diciamolo pure, con Cecca, è lo stesso che è una donna, tra l'altro, no? Per cui dovrebbe avere un po' più di gentilezza, è la stessa che si comporta in questo modo, si è comportato così con Dana, si è comportata con altri. Difatti le detenute, quando sentono parlare di Elena Bonu, beh, davvero si fanno gli scongiuri, perché è davvero un senso, è l'ingiustizia fatta a giudice. Ecco, va bene, non so se ci siamo scordati qualcosa, non so se vuoi aggiungere tu qualcosa a questa discussione, altrimenti per il momento ti ringrazio. Va bene, no, semplicemente la solidarietà a Cecca è fondamentale, scrivere al carcere delle Vallette, perché ricevere solidarietà dall'esterno significa non sentirsi soli, essere confermati nelle proprie ragioni e capire che la lotta collettiva va avanti nonostante la loro violenza, la loro prepotenza. Assolutamente, noi ci accodiamo al tuo invito ad essere solidali, tant'è che ci stiamo già organizzando per mandare la scarceranda a Cecca. Perfetto, fa piacere riceverla, perché anch'io l'avevo ricevuta ed è veramente è un bel dono, davvero. Essenziale, purtroppo e per fortuna, insomma, che c'è scarceranda. Per il momento, insomma, ti ringraziamo e ci sentiamo sicuramente. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quando sono le 12 spaccate, da questa voce è tutto.